Io sono Simona, lei è Flavia, questa mia compagna di avventure, e siamo entrambe delle volontarie del Servizio Civile Nazionale, qui presso il Museo di Antropologia, perché abbiamo fatto domanda per un progetto all'interno dei musei e siamo entrambe antropologhe. Il silenzio è la cosa sonora che più mi ha colpito. E poi i bambini, la voce dei bambini, quando Sì. salgono le scale, che li senti arrivare, oh, arriva la classe! Sto lavorando io nel seminterrato, spesso, che dove abbiamo gli scheletri, il rumore già delle casse oppure delle ossa che vengono stese sul tavolo, quello è anche un rumore abbastanza forte che viene riconosciuto tantissimo da chi, diciamo, si occupa di questa cosa. Varie volte io e Flavia ci siamo spaventate tantissimo perché sopra penso ci sia un terrazzo, non abbiamo ben Secondo me capito. c'è semplicemente un buco in cui loro si infilano e Esatto. ogni E tanto. lei ha una botola sulla sua testa e da quella botola escono dei rumori stranissimi. Ma sera, un pomeriggio ho pensato che mi stesse per cadere qualcosa addosso perché ho detto: mio Dio, Sì, Simona, esatto. sono tremati i vetri. L'attacco dei piccioni dal tetto. In questo era il mio mondo. Sicuramente. Quando i bambini si stupiscono. Quando fanno domande, quindi quando c'è rumore, insomma, perché rumore che però dimostra interesse, nel senso quindi quando fanno domande, quando si stupiscono. La gestione di un museo è abbastanza complessa, soprattutto di musei che hanno un po' di problematiche come questi. Diciamo che rimanere per migliorare le cose, per cambiarle, sì. Rimanere con le cose che rimangono uguali sarebbe un po' pesante, insomma. Perché noi abbiamo molti problemi, soprattutto durante il weekend, il sabato e la domenica. Quello che non troviamo. A Natale ci hanno fatto il regalino perché ora lo usano come bagno pubblico, quindi così usciamo fuori dall'entrata del museo. Sì, Siringhe con siringhe, sangue. sangue sui gradini, Sì, quindi sì. abbiamo avuto un po' di Vomito, problemi. abbiamo trovato anche qualcuno che poverino è stato proprio male, disse, sì. Quindi come vorremmo che fosse come cambiare? Beh, non so se c'è una soluzione a questo problema, sinceramente, perché io penso che Ma in realtà neanche il c'era, ci hanno comune parlato dei riesca. drop-in, c'erano queste soluzioni in cui questi ragazzi potevano richiedere le siringhe pulite, in cui potevano buttarle, quindi non le lasciavano per la strada, in cui c'era il bagno, quindi. Però adesso non c'è più, forse per mancanza di Sì. soldi, no? Si È un capisce. problema che noi ci sentiamo molto. Per il fatto che comunque essendo un museo, in particolare il sabato e la domenica vengono molte famiglie, quindi magari il bambino anche che cade sul gradino e si trova con la siringa, cioè non è proprio una bella cosa, quindi in realtà è una problematica molto grande per il museo Sì. questa della zona in cui si trova, perché veramente è un degrado spaventoso Soprattutto quest'area. nel weekend, non sembrerebbe, ma Sì, soprattutto nel nel weekend weekend, parecchio. perché non c'è nessuno. Mentre nella settimana ci sono gli studenti, quindi pasti, quindi comunque la zona è viva. E nel weekend non c'è assolutamente nessuno. Anzi, un sabato mattina, un'ora prima che noi entrassimo, un ragazzo è stato minacciato con una bottiglia rotta per rubargli il portafoglio, niente di. Quindi è una problematica Sì, un po'. io non penso che ci sia proprio una soluzione a questo problema, cioè credo che veramente non ce ne sia una, però non mi sembra neanche che si stia facendo a No, livello non si fa proprio niente. di Bologna in generale qualcosa di concreto per sistemare l'ambiente universitario, ecco la zona universitaria. Ai bambini che vengono e che ci chiedono perché abbiamo ucciso la gente nelle vetrine. E vai a spiegargli, ovviamente non li abbiamo uccisi. Certo. Perché li avete uccisi? Ma i bambini, ma perché li uccidete? No, non li uccidiamo. No, un'altra molta interessante è stata appunto, vedete i calchi e quando sono stati questa collezione in particolare, collezione Cipriani, diciamo che aveva anche uno scopo razzista in qualche modo. Nel colonialismo veniva fatto questo studio per capire la supremazia di una razza che non esiste sull'altra e è venuta una. Io ero di là, quindi non mi vedeva questa mamma, figlio e papà. Lei di qui davanti, ma questa collezione, ma non ci dovrebbe essere, ma è incredibile, ma lui aveva aderito al partito fascista, allora tanto che io mi sono alzata, sono venuta di qua, tutto a posto, volete qualche informazione? No, no, tutto a posto. E intanto la sentivo, ma come, come, come? E no, mi ha scolpito questa cosa eliminare quello che non ti piace, quando invece è da tenere perché bisogna ricordarselo bene. proprio perché non è da ripetere. Un momento bellissimo è stato quando abbiamo lì un sottotetto dove ci sono alcuni reperti della collezione, il momento in cui abbiamo scoperto queste pelli di scimpanzé, di orango, è stato un momento raccapricciante in cui si notavano queste manine che uscivano dalla scatola e quindi sì, c'è stato un urlo spaventoso provenire dal sottotetto. Sì, esatto. Piccioni ci attaccano. Piccioni. Pelli di scimpanzé e piccioni, i nostri pericoli.